vuoi aggiungere qualcosa a queste notizie? Ok, io ho cercato di documentarmi su queste sentinelle in piedi che sono state contestate in varie città d'Italia. Solamente ieri a Bologna, a Torino e in altri piccoli centri, perché appunto le sentinelle in piedi avevano chiamato questo presidio in molte città italiane. E infatti, se voi andate a vedere su questo sito sentinelleinpiedi.it vedete appunto un sito molto sobrio, neutro, senza simboli, senza riferimenti espliciti a quello che poi c'è dietro questo nome, questa iniziativa chiamata appunto Sentinelle in Piedi. Quindi hanno anche cercato di trovare un modo per comunicare con la gente in maniera molto appunto comunicativa, neutra, senza appunto mettere dei simboli, ma sappiamo benissimo appunto cosa si nasconde dietro Sentinelle in Piedi, che è un'iniziativa dove praticamente delle persone stanno in piedi ad un metro di distanza come se fossero appunto quasi delle marionette, uno accanto all'altro, e leggono questi libri. In realtà il motivo per cui scendono in piazza è quello di protestare contro il fatto che ci siano delle leggi contro l'omofobia, e riprendono questa iniziativa da un gruppo francese che io non so dirvi bene, insomma, non so il francese, quindi non so dirvi pronunciarvi questo nome, però è molto simile a quello che stanno riproducendo in Italia. Infatti loro stessi, in un comunicato che ho trovato sul sito, scrivo sul modello di questo gruppo francese che si sono opposti alla legge Taubira sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, le sentinelle in piedi promuovono in piazza questo tipo di iniziativa. Quindi non ha solo non sono stati nemmeno molto originali, è una riproduzione di un'iniziativa appunto di altri omofobi francesi. Però io abbiamo al telefono Francesca di Torino, una compagna di Torino che ieri è stata in piazza a Torino contro appunto le sentinelle in piedi. Ci senti, Francesca? Sì, un buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ciao, raccontaci un po' di questi personaggi che sono scesi in piazza ieri a Torino. Abbiamo visto un po' di notizie, le notizie riportano in particolare Bologna, ma stanno insomma uscendo anche notizie su Torino. Ma raccontaci un po' insomma quello che è successo ieri. Sì, come dicevi bene tu nell'introduzione, ieri anche a Torino era appunto prevista una manifestazione di questa sigla delle sentinelle in piedi, che appunto ufficialmente, dando uno sguardo ai loro siti, ai loro video di presentazione, dice di volersi battere per la libertà di espressione, in particolare contro il decreto di legge Scalfarotto, che è quello che tutela appunto dagli attacchi omofobi. Di fatto quindi insomma si pongono, almeno in linea teorica, su un terreno abbastanza scivoloso e ipocrita, perché appunto loro dicono: noi non siamo contro gli omosessuali, ma siamo per la libertà di espressione. Ovviamente è chiaro che tutto questo è insomma solo uno scudo, un vessillo dietro cui nascondersi, e che appunto di fatto poi legittimano implicitamente non solo l'omofobia, ma anche tutte le conseguenze che questo ha ancora oggi nel nostro paese, dalla discriminazione alle aggressioni e tutto il resto. Quindi nei giorni scorsi insomma questa notizia di questa manifestazione è girata molto, nonostante ce ne fossero già state nei mesi scorsi, che però avevano avuto un eco molto minore. Invece questa volta appunto nel giro di un paio di giorni questa notizia appunto ha fatto il giro dei social network ed è partito nel giro di poche ore questo appello a scendere in piazza contro queste sentinelle in piedi. Insomma, lo scenario che ci siamo trovati ieri poi di fronte a Torino è stato abbastanza inaspettato, ma sicuramente anche entusiasmante, perché appunto in tutto era stato organizzato solo nel giro di un paio di giorni, ma abbiamo visto una piazza veramente numerosissima e molto eterogenea. L'appuntamento delle sentinelle era stato dato in piazza San Carlo alle 16, piazza insomma che è centralissima a Torino, che è stata completamente blindata fin dalle prime ore del pomeriggio. Alcuni compagni e compagne hanno provato ad avvicinarsi già poco prima delle 16, sono stati respinti brutalmente, insomma spintonati dalle forze dell'ordine che presidiavano la piazza, però nel frattempo poi nel giro di pochi minuti è arrivato tutta la gente che invece si era data appuntamento per la contromanifestazione, che è partita insomma da piazza Castello, ha raggiunto piazza Carignano. E quindi insomma in breve il colpo d'occhio era abbastanza chiaro, c'erano poche decine di queste sentinelle in piedi, ferme in mezzo a una piazza iperblindata, e tutto attorno insomma centinaia di persone, nei momenti credo di massima partecipazione penso se ne contasse quasi un migliaio, che in un certo senso ha assediato questa manifestazione con insomma interventi, cori, slogan, striscioni e tutto il resto. Quindi insomma sicuramente una partecipazione, come dicevo, inaspettata. Rispetto alla composizione delle sentinelle, credo che questa loro pretesa di definirsi apartitici e confessionali venisse immediatamente così sbugiardata solo da un occhio alla piazza torinese. Poi insomma non ho guardato quella delle altre città, però ho visto che anche a Bologna c'erano insomma esponenti di Forza Nuova. Per quanto riguarda Torino insomma abbiamo riconosciuto alcuni volti noti della politica torinese, come quello di Maurizio Marrone, che arriva insomma dalle file del FUAN, che ora siede in consiglio regionale con Fratelli d'Italia. Quindi insomma la matrice politica era abbastanza chiara, c'erano anche esponenti del Movimento per la Vita, che è questa sigla di ultracattolici reazionari che insomma vorrebbe cancellare con un colpo di spugna la legge 194 e tutte le lotte per la libera scelta delle donne. Quindi appunto la composizione era abbastanza chiara, c'erano insomma invasati cattolici che urlavano che saremmo dovuti passare sul loro corpo prima di cancellare il vero spirito del cristianesimo. Quindi insomma questa pretesa di neutralità, di pacificità è stata confessionata credo nel giro di pochi minuti. Insomma questa partecipazione inaspettata ha creato anche molto entusiasmo, tant'è che dopo un po' la gente è indignata dal fatto che un'intera piazza venisse privata dell'accesso per difendere poche decine di persone, ha cominciato a togliere le transenne che difendevano le sentinelle e insomma ha letteralmente riconquistato la piazza con queste poche decine di persone omofobe che sono state scortate fuori dalla piazza tra due cordoni di polizia. Quindi insomma una partecipazione davvero sorprendente, ma soprattutto anche molto, molto determinata, che sicuramente fa anche riflettere alla luce di insomma anche la scelta di alcune sigle che invece avevano deciso di non partecipare, che sponsorizzano invece altri eventi che però forse nei termini anche così dell'orgoglio delle persone omosessuali hanno perso un po' di senso in questi ultimi anni, che invece ieri hanno insomma rivelato un volto molto determinato e sicuramente molto, molto interessante. Mi senti? Sì. Ok. Sì, quello che mi ha stupito è stato, vabbè, dal sito sembra che insomma tu hai smentito e hai smentito bene riportandoci un po' la fotografia di quello che è successo ieri a Torino, ma anche dalle immagini di Bologna si vede un po' la risposta della città a queste sentinelle in piedi. Allora sì, sembra che ci sia una grossa partecipazione alle loro iniziative, ma quello insomma che mi ha stupito di più è proprio la difesa da parte delle guardie di queste sentinelle in piedi, quasi come per dire insomma chi ci aggredisce, noi siamo per la libertà di espressione. Loro pongono un po' questa forma di protesta pacifica che io non capisco insomma che senso abbia stare in piedi a leggere un libro protestando in qualche modo contro l'omofobia, e hanno un po' questa espressione in modo da risultare pacifici, quando insomma li conosciamo bene non lo sono mai stati, sono difesi alle guardie. Sì, assolutamente, infatti appunto quello che dicevo è sicuramente un impianto del discorso molto ipocrita, ma che è stato credo ben smentito dalla piazza, perché infatti loro dicono: noi siamo qua fermi in piedi pacifici, siete voi che venite a contestarci. Poi sappiamo bene che insomma anche stando zitti, ma insomma leggendo poi le cose che vanno a dire sui loro siti, anche quella può essere una forma di violenza nel momento in cui vanno appunto a legittimare tutta una serie di retoriche che sono ben più violente di una contestazione che giustamente voleva cacciare queste persone dalla piazza, perché ripeto, sostenere apertamente che l'unica famiglia tradizionale, quella fondata sul matrimonio tra uomo e donna, legittima implicitamente attacchi omofobi, vuol dire insomma fare passi indietro su tutta una serie di rivendicazioni. Quindi credo che insomma questo livello sia stato ben messo in luce dalla piazza, che ha riassunto credo un po' in uno slogan il nocciolo della questione, perché gridava: l'omofobia è odio, non è insomma una questione di opinione o di libera espressione. Va bene, Fra, noi ti ringraziamo per il tuo contributo e continuate insomma a resistere a Torino contro le sentinelle in piedi. Va bene, sì, credo che dopo l'appuntamento di ieri insomma ci siano sicuramente sia sicuramente un buon precedente qualora queste manifestazioni verranno riorganizzate, ma credo che insomma spero ci penseranno due volte vista l'accoglienza che hanno ricevuto ieri. E poi diciamolo, il nome è veramente brutto, sentinelle in piedi. Sì, tra l'altro. Grazie, un abbraccio. Grazie a voi, un saluto. Ciao, ciao. Buona giornata. Ciao, ciao. Bene, di nuovo.